cose, oggi c'è troppo traffico, non ti puoi permettere di fare certe cose, assolutamente no. Ma erano tutti divertimenti sani, invece oggi come ti si rimette nei giovani di oggi, Tony, andando in granci. Invece prima ci divertivamo così, ci divertivamo. Avanti Gianni. Ah sì, quelli sono già giochi più costosi. Noi mettevamo un pezzo di ricompensato nelle scaline di San Giovanni Bosco, della scuola elementare Sacro Cuore, e scendevamo a razzo, oppure usavamo i monopattini e facevamo le gare dalla scuola fino a scendere al tabacchino, tutti quanti 3-4 monopattini, poi passavamo lì vicino urbani, come si fermavano, prendevano il monopattino sotto il braccio e scappavano. E io invece negli anni 62-63 con i cuscinetti mi facevo il monopattino e carriera si faravo. Io con i cuscinetti grande davanti e due piccoli dietro, poi il freno, mettevamo un bastone con un chiodo al centro, quando tu lo tiravi c'era una gomma di quelli di copertone, cazzo, per frenare. Invece con la bicicletta noi scendevamo nella scalinata del cinema della stazione, ci scendevamo lì, oppure di nascosto quando non c'era il poliziotto nella scalinata di provincia in Piazza Italia, di nascosto quando non c'era il poliziotto di guardia, erano divertimenti proprio, cosa vuoi che tu dica? Una volta c'erano degli amici e c'era questo che era panettiere, era, no? Un panificatore, e aveva la bicicletta del forno, sai, col portabagagli davanti e dietro. A un certo momento dice, ma io Alfonso sarebbe il barbiere che c'è lì via Gatta d'Reda, no? E questo, io sto parlando di un certo Tone Pinna, buon'anima, ormai è morto, più grande di me, eccetera. E sono andati a io che andiamo a prendere un po' di fichi, e la prendiamo, e verso Canega, arrivano al passaggio del Berno di Canega, cadono e sono dovuti andare tutti e due all'ospedale, sono divisi tutti in serotati, in faccia, nelle braccia, nelle gambe, dappertutto. E noi aspettando che tornassero, che non tornavano mai. Quando sono tornati, tutti gli altri avevano fatto dire a Rottoni, dalle cure dell'ospedale che gli avevano fatto, sia Alfonso che a questo Tore, buon'anima. E con l'altra più poveraccia ancora, eravamo ancora indietro del tempo, quando con una mascella e la gomma la battevamo, facevamo camminare da parte all'altra la curva, uniamo un scicca la mano, allora poi imparato, no, di ferro con una ruota in gomma bianca oppure col cerchione, fatta U e poi pigiata e tiravo e chi ci camminava, che era cazzata, e vabbè, avanti voi tra. E l'altro gioco, mettere le cerbottane, mettere le gommine delle cerbottane, l'ago e tirare la sedere delle signorine che passava, prova il fatto. Sì, con due o tre cerbottane, che non sono furbo, e mettevamo, facevamo il corso della cannuccia, dava fa tre colpi, tutto tu, sudevamo, cioè soffrivamo, chiaramente cazzate, vabbè, noi ci divertevamo così, con poco, tu penso poco, eravamo, diciamo, a livello povertà, diciamo, no, però ci divertivamo, era un divertimento pulito, non è come oggi, capito? Era la bicicletta, Torino, l'aveva messa il cartone nei raggi attaccato con le mollette per fare il rumore del motore. Scappa con le mollette e lo accatta, che cazzate. E l'Aquilone, si hanno aggiunto un poco di Aquiloni, lo chiamavano il fratanese Romaloni, con l'Aquilone, già ne ho fatto poco, sì, per tutti gli amici facevo l'Aquilone, tutti quanti in giro, correndo da un campo all'altro con questo Aquilone che volava, bello, era proprio bello, bello. Oppure la centivena, facevamo la centivena, allora lì al corso giù in fondo c'era il nostro di ferramenta di Busolera, no? C'era. E vendevano il carburo, vendevano, e aveva un sacco davanti alla porta, e quando andavano a comprare il carburo, sempre lui prendeva con una paletta, una specie di salsa, come si chiamava, e ne cadeva c'erano dei pezzi per terra, no? E noi, tutti i pezzi che c'erano per terra, andavamo e raccoglievamo, anche chiedendogli a lui, chiedendogli al negoziante, a Busonera, e li prendevamo. Allora andavano e facevamo un buco per terra, un barattolo, un po' d'acqua, carburo e fuoco, e vedevi tu questo barattolo che saliva in alto, pericolosissimo, infatti qualcuno se l'ha preso anche un colpo in faccia e qualche punto anche. Avanti Tony. Me lo ricordo, il carburo, il buco per terra, il barattolo, l'acqua non avevamo e facevamo la pipì dentro. Il barattolo infatti è una cosa micidiale, pericoloso, sì sì, e altri tempi, dai, si è parlato degli anni 60 sempre, che cavolo. Oi, questo carburo sì. Andiamo bene, già dei pezzi. A proposito di carburo, mi sono ricordato di un albero di limoni. E cioè? Quando stavi facendo i limoni, dove è quello? E quando, dove? In campagna di Lucia. In campagna di? Di Lucia. Aspetta, cosa è successo? Non la metto più. Tu stavi facendo i limoni, qualcuno ha mollato e tu hai toccato, questo è carburo. Ma è forza, mi hai fatto diventare i limoni cinesi, mi affiago Giulio. Maria, oppure quando c'era la strada viaggio lì, di fronte allo stadio dei Pini, dove c'è adesso lo stadio dei Pini, no? In quella via che sale su per via Tizi e via Orsi eccetera, c'era la strada Vini, c'era, dove facevano appunto il vino, no? E arrivavano il camion con l'uva. C'è di camion con l'uva là, e se sapessi quante mangiate di uva le hanno pigliate da un camion, tutti, ma una flotta di bambini, tutti quanti andavamo, tiravamo su un pochino il tendone e prendevamo l'uva, e a mezzo parmentare tutto, ma che dai, non era nemmeno molto buona, perché ormai era già l'uva che stava fermentando, ti puoi immaginare, però in quel periodo, sai, essendo bambini, che cosa ne sapevi? Cioè, mangiavi l'uva e eri contento, no? Avanti, Tony. Via Giovanni Pascoli, di fronte da Tabacchino, che c'è il supermercato, cos'è? La Copa, che quello lì, se non vado errato, cos'è? Sì. Lì, prima della Copa, che poi c'è... mi ricordo l'ufficio, comunque lì c'era la fabbrica dei mattoni, io andavo a pigliare l'argilla e chi viene, fammi in un raga piccolino, non so altro per dire. Tu lo sai, io abitavo lì, noi andavamo dietro dove c'era proprio la tramoggia lì e ci davano l'argilla, i mattoni d'argilla ancora freschi, ci rilanciavano, noi facevamo le barchette, tutte queste cose. Ci accontentavamo di poco, perché sei qua dietro tutto questo casino non c'era, c'è il benessere e siamo anche viziosi. Prima ci accontentavamo con poco, più telefonini, macchine, addinai, busciacca, ma che dai, Cadolino di Zizzi, mia Franchi, ma i cinire erano l'uomo più ricco del mondo, che ha fatto un conto, cantano basici, allora costavano le giugio, le mettine, una lì a lui, ha fatto un conto, una sa cosa era. E allora lì l'Antonino, dove stai dicendo tu, nell'accordo, lo chiamavano qui, nell'accordo, quello della fabbrica di mattoni, Antonino, che praticamente era il marito di Maria Teresa, quella che modulava anche al baracchio, che poi disgraziatamente era nella sedia, era insegnante, ti ricorderai Gianni, e anche tu ti ricorderai, Antoni, senz'altro, con Maria Teresa. E noi l'argilla che la prendevamo per farci le palline, per giocare poi con le palline o Tony, perché se non avevi i ballucci, sai, i besciolini eccetera, allora con l'argilla li facevamo rotondi, li facevamo a mano così e giocavamo ugualmente. Te lo ricordi Tony? Ma stai dicendo Maria Teresa Fiocco di Neve? Fiocco di Neve, sì. Antonino era quello dell'accordo, il marito. Sì, e abitava lì a Montefurro. Cioè, scendendo per andare nelle prime curve, girava a destra, salì su, andava in quella zona lì. Lì abitava quella zona. Ci sono andati, ho fatto qualche lavoro pure lì, tempo fa. Ma il marito non era rappresentante di medicina? No, io so che era quello dell'accordo era. Era il proprietario di quella fabbrica di mattoni, eccetera, già. Io l'ho sempre saputo dal primo momento. Io mi ricordavo che era rappresentante diventato il medicinale marito, poi può darsi che mi sbagli, comunque fiocco di rabbia, ma la ricordo come se non lo ricordo, ci modulavo tantissimo. E lei diceva, se non lei aveva la sclerosi multipla, diceva se me lo permette la sclerosi, posso vedere tutto quanto, ci sono volte che non vedo nemmeno. Sì, anche io mi ricordavo che era rappresentante lui. E dovevo farli poi in Ovalerrazzo una veranda, dovevo farli, prese misure tutto quanto, poi si sta male di più la moglie e poi ciccia, niente, non si è fatto più niente. E lì quello che abbiamo fatto, signore Silvia, che c'era una signora, gli ho fatto alcuni lavoretti lì di fronte a lei. E come c'era S2 Roberto, un altro CB che abitava in via Maddalenetta, voglio che chiaro, non so che fila ti faccio poi. Roberto S2. Boh, non lo so, io mi ricordo che era il marito, era quello dell'accordo, comunque non fa niente. Abbiamo ricordato anche Maria Teresa, che non so, io non lo so se è ancora viva, ma spero di sì. Non so, tu niente ne sai, Gianni. No, io poi non l'ho più sentita in radio, è scomparsa proprio. Lei a volte camminava, a volte sedeva a rotelle, ma lei a me mi aveva detto che il marito era rappresentante dei medicinali, se poi magari mi ha detto male, quale ti sto dicendo, così mi aveva detto lì. Vabbè, comunque, dice, noi abbiamo una bella casa, non ci manca nulla, solo che a me mi manca la salute, quello. Beh, poveretta, è stata sfortunata, sicuramente è stata sfortunata. Lo so, mi ricordo quando c'era Maria Teresa al baracchino, allora in quel periodo si facevano anche le partite di calcio la domenica, no, al baracchino si trasmettevano anche le partite di calcio, ad esempio da Castelsardo, da Sorso, tramite telefono mettevano il baracchino e trasmetteva su un determinato canale e c'era anche. E tante volte c'era anche Maria Teresa ascoltando la partita, entrava questo e gli metteva quel disco, quella canzone Jeten, una cosa del genere, Gianni, adesso non mi ricordo il titolo esatto, che era una canzone un po' sensuale. Lei l'ascoltava però era intelligente e non si offendeva, anzi diceva grazie per la musica, molto bella, diceva. Avanti Gianni. Non me lo ricordo il titolo com'era esattamente, comunque era quella canzone lì, già mi è capito di quella sto parlando. Avanti Tony. Ecco, ti ringrazio perché adesso devo chiudere, che bisogna preparare un po' di roba buona e leggera tra l'altro, perché a cena vado sempre leggero io. Va bene, dai, buon proseguo, signori Billy, grazie al consiglio per la compagnia e io me ne vado, trovate in quanti, spengo tutto, metto dalla TV dentro e preparo una mangiuchiera. Ok, buon proseguo, ciao Giulio, ciao Gianni, eventuali ascoltoni. Statevi bene e alle prossime volte. Ciao ciao. Ciao Tony, ci sentiamo, dai, e buona carica quando la fai, non pensavo che fosse così tardi, non mi sono manco reso conto perché io ho fatto mille cose. Non so come che indecizi, non so nemmeno io come ho fatto a fare tutte le cose che ho fatto, da stamattina presto, ma è interessante riuscire a fare le cose. Ciao Tony, ci sentiamo, avanti. Ok, ciao Tony, grazie per la chiacchierata, dai, ci sentiamo eventualmente domani se coincide, speriamo di sì. Sì, e le fece così. E c'era Claudio anche, poc'anzi Gianni, c'era anche Luca, c'era anche Danilo, ma Danilo e Luca erano forse andati via, non lo so. E Gianni, invece Claudio era al telefono, evidentemente è ancora impegnato col telefono. Stavo parlando sicuramente di cose interessanti. Per lui perlomeno. È così, è già, altri tempi, ormai è tutto cambiato, non c'è niente da fare, no? Non ci sono più oggi i giovani di oggi, il regalo, qual è? Cosa mi regala a Natale? Non ti fai da bravo, ti regalo il computer, oppure ti regalo la bicicletta, o ti regalo il motorino addirittura. E da voi vieni, perché il ragazzino non ha testa, si mette a correre col motorino, cade, si fa male, i genitori piangono, ma che dai, invece prima, guardate, una palla di gomma, 7 branchi, dato me, e così via. Avanti Gianni, sì. Vediamo un po' se c'è Claudio, ci sì. Io Claudio non ho sentito nemmeno, quindi sono andato acceso. Claudio? stavo parlando con un tecnico, non so, sicuramente per cose interessantissime per la casa, o già entra Claudio, dai, se fosse libero già sarebbe rientrato, non c'è problema. Sì, ma è così, mi ricordo allora, già tornando al discorso del regalo, mi avevo comprato un paio di scarpe da tennis, di quelle blu di una volta, di straccio, vero? Che li vendevano, dato me li vendevano queste. Caspita, io contento, bambino, guarda per la butta, avrei già avuto, se no, 10 anni, 12 anni, non di più. Esco da casa, come sono uscito da casa, ti vedo questa palla arrivare, no? Come vedo la palla, io in corsa che ero, gli do una pedata alla palla, boom, e mi si passa la scappa da parte in parte, la tela, no? Poi per strappata la tela, da parte in parte, le scarpe appena messe ed ero appena uscito da casa già, per dirgli no, ci accontentavamo di poco, anche perché i tempi erano quelli che erano, sai, eravamo reduci praticamente della guerra, quando sono nato io, sì che i tempi ci sono voluti anni prima di vivere in maniera un pochino più decorosa, avanti già. Eppure con i tappi ho giocato, io mi ricordo che facevamo i tappi piatti con la pietra e poi li tiravamo al muro, dove chi si avvicinava di più al muro aveva vinto. Arcetto, Marlucci, Azzembo, a Fossetta, insomma un po' di tutto. Prima al negoziante giocavamo, pesare la terra, lui. Sì, lavora con le figurine, la bacchetta d'andata, al primo monte, tutti i giochi quelli di allora che ci inventavamo, dai, però erano diventati ormai di diffusione generale, perché tutti praticavano quei giochi lì. Invece oggi, a parte il fatto che oggi ragazzi per strada giocando non li vedi quasi da nessuna parte, mentre invece prima c'erano i ragazzini e appena che ti lasciava libero il genitore, te ne andavi fuori e giocavi, sai, soprattutto nella stanza di vecchia, dove allora c'era l'afflusso maggiore di tutti i cittadini della città di Sassari. Allora c'era da divertirsi veramente, no? Oh, la battaglione, la Bulbi con la fionda, con i razzi, perché no? Anche quello, avevamo la banda di via Famiglia San Pietro, la banda di San Nicola, la banda di Santa Apollinare e così via, la banda di Corso Trinità, e ci sfidavamo con la fionda o con il tirerazzi, con quelli giochi pericolosissimi, vai già. Io me lo ricordo, anche al Sacro Cuore c'erano queste cose quando ero piccolo io, capito? E c'era la banda del Sacro Cuore, c'era quella di Black che ci aveva il cane, noi ci avevamo accipito a Cirivella e come si chiamava? Montoni, un cane si chiama Montoni. Sì, Cirivelle poi, sai quanto ne ho fatto, no? Mamma mia quante Cirivelle che ho fatto, io sempre facendo Cirivelle. Se sapessi quanto ce ne ha sequestrato anche il vigile, perché non si potevano usare, però noi ci giocavamo lo stesso, sai, con la scusa che mio padre lavorava in proprio, che avevo quella possibilità di poter fare certe cose, andavo, prendevo i perfettini di legno e facevo le cirimelle, capita che andavo arrivato. Poi ho cominciato a fare cose un pochino più grosse, tipo monopattene, oppure come si chiama, non ricordo più nemmeno, la cosa che girava e faceva cracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracracrac cominciava a essere un pochino più difficilotto, ero bambino, ma comunque io avevo quella possibilità di fare, perché ripeto, babbo lavorava in proprio, dunque avevo tutto, avevo legno, avevo quello che mi serviva già. La barrucola. Non la manucola, no, la matracca, ma c'era quella che girava, non solamente quella a due cose legate con lo spagolo, c'era proprio quella che girava e faceva come il grillo, che quando girava faceva come il grillo proprio. Sì, me lo ricordo, c'era una specie di linguetta che toccava in un ingranaggio, tu come la facevi, esatto, praticamente. mettevi le molette nei raggi della bicicletta, era più o meno la stessa cosa. Sì, me lo ricordo. E se no i pistolini, giocavamo, prendevamo, visto dove c'era Turchetti, c'era uno che prendeva pistole, giocattoli, andavamo lì, compravamo le pistole, tutta la greffa, e facevamo le sfide con le pistole, quelle che partivano, non so se te le ricordi, si inserivano queste stecche, queste verghe all'interno della pistola con una ventosa e partiva, tu sparavi e partiva. Certo, partiva anche con le frecce, sempre quello, anche con le frecce, facevamo i fucili, facevamo con le lassi, con le frecce, la cerbottana, e cose che non si facevano, quante cose, eppure erano giochi che a noi ci divertivano tanto, anche perché non avevamo altro, non avevamo noi giocattoli costosi come quelli di oggi, eccetera. Invece poi che siamo diventati adulti, abbiamo visitato i figli, abbiamo dato giocattoli e di più anche, tutti le specie, e anche molto costosi. Ad esempio mia figlia, quella che non ha avuto, qualsiasi tipo di giocattoli, tutti indistintamente. A partire dal triciclo alla casetta di Barbie, alla bicicletta, al monopattino, all'automobile, alle cose che hanno avuto, tutto indistintamente, tutto, invece noi non avevamo di queste cose, però va bene così già, vai. E vabbè, tua figlia era anche figlia unica, quindi potevi dare anche di più. Mio padre aveva 5 figli, diciamo che abbiamo sempre vissuto molto bene, perché anche mio padre è brutto e guadagnava anche bene perché aveva molto lavoro, era un po' come te che lavoravi bene, ci avevi il tuo lavoro e quindi andava avanti, addirittura andavano dalle campagne a portare il lavoro, figurati, se lo portava anche a casa, se non iniziava a casa, per dire le scarpe, se le dovevano isolare, le incollava a casa, tagliava la suola e poi l'indomani, quando erano già pronte, le cuciva, capito? Non rifiutava mai nulla, infatti mamma lo sgridava e diceva, tu quando finisci il lavoro devi finire e basta, non devi portare il lavoro a casa. Ma chi lavorava proprio era così, è normale, no? È normale, ma quello succede un po' a tutti, ad esempio, certo non è successo a me, però io me la portavo nella mente e lavoro a casa, perché tu non hai idea di quante notti a dormire tardissimo proprio pensando ad organizzarmi l'indomani per poter fare, eccetera, eccetera, che dopo aver fatto tanti anni di artigiano, uno lavora prima in stabilimento, in negozio, in falegnameria, e poi mentalmente la notte hai tanti di quei pensieri che non fai altro che pensare, perché arrivavi già preparato all'indomani mattina alle 8:30 quando entravi al lavoro, partivi già spedito proprio di gran carriera, perché avevi studiato durante la notte tutto quello che dovevi fare, ti avevi già programmato il lavoro, capito Gianni? E purtroppo era così, si lavorava per conto proprio, era così, vai. Sì, era l'organizzazione, no? che ti facevi dalla notte per il giorno dopo, normale, partivi già organizzato, te lo facevi altro che per tutto quello devi prendere e assemblare e fare. E vabbè, erano altri tempi giù, era un casino. Io mi ricordo mamma che aspettava mio padre alla finestra, quando me lo voleva arrivare li preparava subito l'asciugamano pulito, li metteva il minestrone nel piatto, tutto quanto, quando arrivava gli dava il bacino, diceva, beh Mario, come è andata la giornata, oggi a mano c'ha più sì. Sì, ma era così, infatti, poi continuava a rimuginare poi durante la notte a casa, perché è così, e non solamente per il lavoro, dovevi andare per dire, non so, in banca, dovevi andare a comprare materiale, ti organizzavi, sapevi che dovevi fare un lavoro e allora mentalmente ti organizzavi, sapevi quanto materiale, quanto legname dovevi comprare, quando dovevi andare in banca, tutte queste cose già, te li facevi la notte, perché durante il giorno non te li potevi fare, no? Lavorando in falegnameria, poi la notte ti organizzavi mentalmente e l'indomani tranquillo, andare dal commercialista, tutte queste cose qua, bisogna fare così, cioè uno che lavora per conto proprio, che si sa organizzare, fa quello anche, no? Eh beh, certo, non so, tempi passati, adesso riposati la mente. Allora me ne beso burla di nubi la mattina e qualche volta anche alle 9:30, per cui prima invece me ne dovevo alzare alle 7. Mi sono alzato alle 7 per 60 anni e anche oltre 60 anni, mi sembra che credo di meritare di rimanere qualche, che poi tra l'altro mi sveglio sempre presto, solo che mettendo la televisione, metto le cuffie e mi ascolto tutti i telegiornali, mi ascolto, poi passo ad Agora, che parlano di politica, parlano eccetera, insomma un po' di tutto, dai. Ma fino a quell'ora non mi alzo mai, appena che dopo che mi alzo mi preparo il latte nella macchinetta espresso, eccetera eccetera, e così via, e d'altronde cosa fai a casa, se no la giornata non passa mai. Già anche oggi mi sono fatto due cornici, quelle avevo iniziate ieri, oggi me li sono completati, ho due quadri, due puzzle, no? Che avevo fatto mia figlia da un po' di tempo, dovevo fargli le cornici, anzi, non avevo un materiale, adesso mi era avanzato qualche pezzetto di legno e li ho fatte, sono grandi, mi sono cornici, saranno 80-90 cm per 60 più o meno, dunque le ho fatte, adesso domani il vernicio e siamo a posto, e passiamo un altro po' di tempo, sempre a casa, in mansarda, tranquillo e pacifico, così in silenzio e in santa pace, vai già. Cosa ti hai fatto, tipo laboratorio, Massaro? No, non mi sono fatto un tipo un laboratorio, mi sono preparato un banco sega, mi sono preparato e quando mi devo fare qualcosina, tra l'altro mi sono fatto anche una mi sono chiuso anche la mansarda, quando salgo dalle scale, che c'è la scala chiocciola che sale, no? Però cosa succedeva? Che tutto il caldo se ne saliva, no? E ha detto, ma chi me lo fa fare a me a sfruttare? Così va su, anziché metterla ad una temperatura, la posso mettere anche più bassa, se chiudo la massada, tanto la massada non ci sarà mai nessuno. Allora me l'ho chiuso in poche parole, no? E dunque anche in questi giorni mi sono fatto la porta, mi sono fatto, che adesso tra l'altro forse andrò domani a comprare i vetri e così almeno chiudo definitivamente e non passa più aria, per cui va bene anche quello, dai. Ma sono tutte cose che ho fatto così un'oretta, un'ora e mezza, due ore, tutte le mattine, la sera no, non faccio niente, perché accendo la televisione, sai, i rumori delle macchine, della macchinetta eccetera, è da fastidio, invece in quella maniera la mattina è già diverso, ma vai già. E io allora ti faccio un paio di ore così. E vabbè, tutto quello che non avevi tempo di fare prima lo stai facendo adesso. E andare il piano piano giù. Tanto non ti metti a fretta nessuno. Prima c'erano i critici che ti dicevano, ma non faccio fretta che mi serve, questo e quell'altro, ma ti lo vai con calma, come vuoi tu. Non è nessun problema. E vabbè. No, io sono sempre occupato, lo stesso a casa, faccio sempre lavori, l'altro giorno c'era il frigorifero che si era rotto dove si mettono le bottiglie, quel sostegno che hanno fatto è un pirillino vuoto di plastica, si è staccato, ho provato ad attaccarlo con silicone, niente da fare, allora ho detto vabbè, ho capito, faccio un buco passante, li metto una vite e faccio io, che mi si è aggiubato. Me l'ho aggiustato, capito? Perché ne cadeva sempre, me ne è caduto con tutte le bottiglie sopra. Beh certo, bisogna fare attenzione su queste cose qua. Sì, beh certo. D'altronde già, e tanto sei a casa, non ti passa mai l'ora, eccetera. E allora fai un po' lì, un po' al baracchino, un po' al computer, un po' al tablet e così via, no? E un po' al telefono, chiami i tuoi parenti, chiami, anche stasera ho fatto una lunga conversazione con mia sorella, anzi addirittura mi ha avvisato, mi guarda domenica c'è la gara di tuo nipote, mi ha detto, e i campionati europei, per cui se la vuoi vedere alla televisione, malato l'input, malato l'info, e domenica sera alle 7 guarderò quella gara. Mio nipote è un sollevatore di pesi, no? Ed è un campione italiano, campione d'Europa, anche da poco si è preso di nuovo il titolo di campione italiano, tutta la settimana scorsa, e lui è arruolato nell'esercito, ha 20 anni appena, però lui ormai è dipendente, è sotto le armi, no? È stipendiato e tutto, sia ben chiaro, però lui servizio non le fa, lui pensa solo ad allenarsi, va in nazionale, tutte queste cose qua, e dunque adesso domenica sera ci saranno questi campionati europei di sollevamento pesi e lui ci sarà in gara e io lo guarderò se Dio vuole. Avanti già. E dove la farò questa gara? Aspetta, dove la fanno? Aspetta, dove mi ha detto, se ricordo bene, adesso non mi ricordo se è in Spagna questa volta o dove era, forse è in Spagna questa volta, la volta scorsa invece era a Tokyo, l'anno scorso era a Tokyo se ricordo bene, e l'hanno su Sky Sport, no? L'hanno su Sky Sport, l'hanno, che io tra l'altro Sky non ce l'ho, però ho il tablet che prende tutte le cose, come si dice, tutte le televisioni del mondo, poi ho l'apparecchiatura, attacco il televisore e le trasformo, l'immagine del tablet la trasformo nel televisore da 44 pollici, mi sembra, 45, non mi ricordo bene, capito? E me la trasformo lì e la vedo tranquillamente, e così faccio per le partite di calcio anche già. Sì, io lo faccio col karaoke così, quando faccio il karaoke. Sì, è abbassato, è iniziato bene e si è abbassata la modulazione già. Ho dovuto aumentare molto il volume, quasi al massimo per seguirti, perché ti si era abbassata la modulazione. Sì, è così, io già, è d'altronde, è cosa... E allora, lo so, siccome, ripeto, è mio nipote, e io lo seguo tutte le volte che fa queste gare internazionali, lo seguo, e non solo gare internazionali, anche gare di corsa. È un peso... Non mi ricordo che per peso mosca mi sembra che sia, come coso, e solleva 100, di strappo solleva 165 kg, e di, non di strappo, di slancio, e di strappo solleva 150 kg, sicché sono delle misure, addirittura ha superato di gran lunga anche tanti l'olimpionico, la Peppino Tanti già l'hai conosciuto già. Sì. Adesso ho messo la portata in fissa perché da lontano a volte mollo il tasto e succede quello. Adesso sta uscendo bene. Sì, così va bene, sì. Se lo sento forse la ventola, cioè la ventolina stai usando, o qualcosa, non so, perché c'è una specie di alternata leggera, però c'è, ma forse la ventola, non lo so. E la prova così a vedere se si sente. Ah, si sente. Non dava fastidio, perché la voce la copriva totalmente, non si sentiva niente, capito? Cappagatto. Giusto, mi sa che ti saluto, che sono già le 8, io vado a portare giù il cane. Mi faccio una passeggiatina così e poi vado a mangiare, dai. Per oggi è finita. Buona serata, grazie per il QSO, saluto tutti gli amici, Claudio se c'è l'ascolto, comunque tutti gli altri amici che stanno ascoltando, dai. Ciao a tutti, corretto esecutivo per me, ciao a tutti. Ok, ciao già, grazie a te per il questo, e ci sentiamo, dai. Grazie ancora, ciao ciao, a domani se coincide, ciao. Sì, ma Claudio sicuramente ha avuto da fare cose molto importanti, se lo sarebbe rientrato. Ciao ciao già, a domani, chiudo anch'io, e così scendo giù in tavernetta per la cena, ciao. Tanto sono già le 8 quasi, manca un minuto, per cui va bene così. Entro io, ce ne vanno tutti, buonasera a tutti. Ciao a tu, sto scherzando. E lo so che tu c'ha questo lavoro. K, quella alternatina che cos'hai già? Perché è il microfono quando lo metto a fianco. Se adesso va lontano, l'alternata non ne senti più, guarda. Se va lontano non si sente più nulla. Ciao, buonasera Giulio, hai visto che bella foto che ti ho mandato? Ciao a tu, ma tu sei quella foto fatta di spalle, tu sei a tu, ciao. Ehi, si porta zainetto, si porta. Io sono barbecue. Come le barbecue? Bene, organizzato in quel modo tu sei, capita, bene, fai bene. Papà, c'è la bomboletta di quelle lunghe, si mette dentro, e buco cucina già bemmi la garre. E poi ci lava tutto, lo lavi bene, lo metti dentro la sacca ed è tipo zaino rimane. La prossima rosita, adesso sul mobile lì. Già è comodo così, già è bello utile, già lo credo. Quando tu vai fuori, te lo porti, piatti e metti un tavolinetto, una sedia e mangi e sei a posto. No, io ho il barbecue qua, in mansarda, rimango il barbecue, faccio l'arrosto, poi tutto, pesci, fettine, bistecche, quello che capita, pancetta, salsiccione soprattutto, che è molto, molto buono, arrosto. E per cui tiriamo a campare così. E d'altronde, tu cosa vuoi fare? Era una campagna, se non altro, no? Capa, però in posti dove non puoi fare, cioè dove non puoi portarti la carbonella, ti porti quello e arrostisci lo stesso, una bomboletta di ricambio, una ho consumata perché ho restito un po' di carne. Dopo sono andato in chibi alla puntana, giù lavato tutto, ho sgrassato tutto, lavato tutto. Metti dentro una sacchetta e via per il prossimo viaggio. Già lo credo, sempre pronto a fare una specie di campeggio, dai, per così dire. E così va bene, perché la domenica, soprattutto quando sei libero, che non lavori, ti fai la passeggiatina, adesso che incominciano le bellissime giornate, perché anche oggi era una bella giornata, ma penso che adesso, sì, qualche giornata ancora brutta la farà, però diciamo che tutto sommato il tempo adesso sarà quasi sempre buono, per cui anche le domeniche, il sabato sera, insomma, ti fai la passeggiatina con tua moglie, ti metti lì nel boschetto, come te si chiama, e ti fai l'arrosto, ti fai e mangi, e all'ugrivia, e fai bene tutte cose che io ho fatto quando ero giovane, campeggio, eccetera, eccetera. Io facevo 4 mesi di campeggio all'anno, tutta l'estate ci passavo, però io andavo a lavorare, ma avevo la tenda, avevo il cucinotto, ho fatto tutto da me, con le porte che si chiudeva, tutto quanto, e quando si apriva dentro c'era tutto, c'era la cucina, c'era il tavolo, le sedie, lo scaffaletto per mettere gli alimenti, eccetera, eccetera, e dunque, ma ormai sono passati 2 anni per me, e dunque queste cose, e poi non te lo permettono più nemmeno di mettere la tenda, a meno che uno non fa l'abusivo proprio, però prima era possibile, ma adesso non più, altro. Vai. Adesso ci sono quelli organizzati, lì puoi fare quello che vuoi. Lo so, quelli organizzati sì, ma nei campeggi organizzati no, e poi non ho più l'età per certe cose, non andava bene. Perché voglio subito 79 anni, io tanto per me sarebbe un lavoro un po' massacrante, no assolutamente, anzi non vado più nemmeno al mare, quando vado la sera a pigliare un gelato, quando poi non c'è caldo, ormai i miei anni sono passati, per cui non le faccio più di queste cose. Dai, io e mia moglie lo stesso non se lo senti più. Avanti, Antu. Vabbè, noi siamo giovani, dobbiamo fare le esperienze. L'altra volta sono andato a Cilicco a trovare degli amici verso Cagliari. Ora l'altra destinazione devo andare da mia sorella Olbia a trovare a lei. Fai bene, insomma, Cilicco è un po' lontano, comunque con la macchina ci si arrivano tranquillamente, non è un problema. E poi tu sei giovane ancora, quanti anni hai? 40 anni, all'incirca più o meno, così, quanti anni hai tu? 36 anni ciò. 36 anni, e figurati, non devo che sia, capita. Io ne ho più del doppio di quanti anni hai tu, 36, 72, e ne mancano ancora 7 per arrivare alla metà. Si può immaginare? È così, mi sono sposato che avevo 29 anni e alcuni mesi, sono già, quest'anno faccio 50 anni che sono sposato, 50 anni a Ferragosto, al giorno di Ferragosto, no, non al giorno di Ferragosto, al giorno del Candelieri, il 14 agosto, 50 anni che sono sposato, Antu. Cappa. Anche mio padre è sposato ad agosto. La mia povera mamma. Perché tua mamma è morta? Perché? Se mi stai dicendo mia povera mamma, perché è deceduta? Perché non lo sapevi che mia madre non c'è più da 3 anni. Non lo sapevo. Anche mia madre è morta praticamente 2 anni e qualche mese, dai. Sì, anche mia madre. Mia madre aveva 95 anni quando è morta. Mentre invece mio padre è morto tantissimi anni. Mio padre era malato, è morto, che aveva 82 anni aveva quando è morto, 82 anni e qualche mese, là. Per cui dunque è morto già a roba di 23-24 anni, una cosa del genere, li puoi immaginare. Nell'87, se ricordo bene, sì, 24 anni fa, nell'87 è morto, cioè nel 97, non nell'87, nel 97 è morto mio padre. Vabbè, comunque è andata così, pazienza. Pazienza, è cosa deve fare. Mia madre è morta 3 anni fa. È morta. Nel 2018, più di 3 anni e qualche mese fa è morta. Purtroppo è così, la vita è così. Ed era ancora giovane tua madre, com'è tanto? Sì, era malata, era. Purtroppo le malattie le manda al destino, per cui no, non ci puoi fare niente. No, anche mio padre si era malato, ed è morto a 82 anni, dopo che ha lavorato 53 anni per la famiglia. Mio padre ha lavorato 53 anni, ha fatto 53 anni falegname, ha fatto. Io ne ho giocato 62 anni di lavaggio, pensa un po', io ho superato anche mio padre come anni di lavoro, però io gli ho fatto 12 da elettricista, poi tutto il resto tutto con falegname, per cui è così. Vabbè, dai, la vita purtroppo è così, Antu. Ne hai fatto anche, hai lavorato anche troppo. Adesso goditela come meglio possibile. È quello che sto cercando di fare, Antu, e d'altronde cosa posso fare? D'altronde così, soprattutto in questo periodo che siamo costretti a rimanere a casa, esco raramente, esco solo esclusivamente per andare a fare qualche commissione importante, oppure a fare terapia, oppure a prendermi la pensione, niente di più. Adesso ci dovrò andare anche giovedì a prendermi la pensione, per cui ci vado giovedì, non so, di primo aprile vado, così almeno nella mezzo bulma di tubissi e siamo a posto. Diversamente non esco mai, così rimango a casa, un po' per paura del contagio, un po' perché adesso, non tanto quando esci, non puoi andare da nessuna parte, non puoi incontrare un amico, devi stare sempre con la mascherina, eccetera. Non puoi entrare in un bar in un caffè perché è rischioso per i contagi, eccetera. Tanto vale, me ne rimango a casa, tu e non se ne parla più. Appunto. E via, e quello deve va. Piano piano di fare il vaccino di casa, da ce l'ha qualcosa da fare ogni tanto e via per non distrarti. Cosa deve fare? Beh certo, aspetta un attimo, tanto che vado un attimo nel piccolo cutiacca. Cappa, dai, devo lasciare, dai, che fra un po'. Ci sentiamo alle prossime, ok? Ecco, tanto dai, che così tanto sono già le 8:10 e così scendo per la cena, dai. Così ci sentiamo eventualmente domani. Dai, ciao Anton, grazie per la chiacchieratina e per essere entrato a salutare. Ciao, ciao. E salutami sempre tuo padre, di intanto in tanto, quando hai la possibilità di parlarci. Ciao Anton, alle prossime, ciao. Ciao, ciao. Ma lo vedo tutti i giorni. Ciao, ciao. Aspetta, vai a 27. dimmi cosa è, da buio già ando, non ti preoccupare, dimmi cosa è. 45, 26, 465, 27, 465. Tu mi dici 45, io sono 55. Vai. Cambio, ora, non si mette, cambio, cambio, cambio. Ora.